Restiamo in ambito letterario. Quando nel settembre del 1863 il giovane Giosuè Carducci, lui aveva una trentina di anni, ben deciso a scandalizzare i ben pensanti presenti e futuri, si diede a comporre il suo inno a Satana, opera in cui, come ognuno sa, il principe delle tenebre viene assunto polemicamente come principio positivo e identificato tout court con la gioia di vivere, il progresso scientifico, la libertà del pensiero, tre cose che ai ben pensanti in questione sembravano appunto espressioni tipiche del maligno. Quando cominciò a scrivere quell'inno si accorse di aver bisogno di un finale. Dopo aver tracciato in una quarantina di agili strofette la storia dell'umanità dal punto di vista della lotta del progresso contro la reazione, dopo aver esaltato la sana sensualità del paganesimo contro le mortificazioni medievali, dopo aver inneggiato al Rinascimento e alla Riforma, dopo aver reso omaggio ad Abelardo, ad Arnaldo da Brescia, a Wycliffe, a Husserl, a Savonarola e a Lutero, il poeta doveva trovare un'immagine finale che esprimesse agli occhi di tutti la vittoria del libero pensiero e le radiose promesse che s'aprivano per il futuro. E la trovò, ci sembrerà strano, la trovò nell'invenzione della ferrovia. E per quanto oggi ci possa stupire, alla solenne affermazione della vittoria della laicità sulla superstizione, vi ricordate, no, gittò la tonaca Martin Lutero, gitta i tuoi vincoli uman pensiero, e splendio folgora di fiamme cinto, materia innalzati, Satana ha vinto, a questa solenne affermazione segue senza soluzione di continuità la descrizione del treno. Un bello e orribile mostro si sferra, corre gli oceani, corre la terra, corrusco e fumido come i vulcani, i monti supera, divora i piani, sorvola i baratri, poi si nasconde per antro incogniti, per vie profonde, ed esce indomito di lito in lito, come di turbine manda il suo grido, come di turbine l'alito spande, e passa, o popoli, Satana il grande, passa benefico di loco in loco sull'infrenabile carro del fuoco. Sono versi ingenui, sì, sono versi ingenui ma efficaci. E tanto è vero che piacquero anche chi con Satana non voleva proprio aver nulla a che fare. Quando io frequentavo le elementari, 90 anni dopo l'inno a Satana, vi si trovava normalmente su tutti i sussidiari e le antologie destinate all'istruzione primaria, estrapolati dal contesto, orbati da qualsivoglia allusione demoniaca, anonimamente intitolati al treno, ma c'erano. Sono probabilmente tra i primi versi del Carducci che ho dovuto mandare a memoria, perché allora ai fanciulli si facevano imparare i versi a memoria. E per quanto poco apprezzassi la cosa allora, devo confessarvi che adesso ricordarmene ancora qualcuno non mi dispiace del tutto. Anche perché crescendo ho imparato a non lasciarmi fregare dai commenti scolastici, a cercare di vedere nelle poesie quello che i poeti volevano metterci. E in questo caso evidentemente il buon Giosuè intendeva dire che la facilità di spostamento permessa dal progresso tecnologico, riguardando non solo le persone ma anche le idee e la possibilità di confrontarle, non poteva che affrettare la liberazione da un potere che nella volontà di non lasciare circolare un'idea che fosse una, trovava il suo strumento per eccellenza. Il progresso, allora come oggi, significava anche libertà di movimento. Oggi naturalmente il Papa viaggia in jet e di certe illusioni abbiamo dovuto fare a meno. E quanto ai treni, ahimè, siamo costretti a considerarvi soprattutto delle trappole pericolose. La rete ferroviaria italiana è più o meno uguale a come era ai tempi del Carducci, ma nessuno oggi vi vedrebbe uno strumento di liberazione dalle pastoie dell'oscurantismo. E nelle vecchie e nuove carcasse che la percorrono arrancando, fermandosi spesso, deragliando sovente e scontrandosi talvolta l'una con l'altra, e non c'è proprio nulla che possa entusiasmare un poeta. Ma in fondo il destino del treno era già segnato prima che la gestione dei vari burlando producesse i risultati che ha prodotto, e non solo perché il progresso, comunque lo si voglia giudicare, va avanti e rende obsoleto quello che una volta sembrava il top della modernità. Io mi riferisco al destino ideologico del treno, alla sua immagine pubblica. Il treno come strumento di trasporto oggi gode di una stampa abbastanza buona, soprattutto qua da noi a sinistra, ma se ci pensate un momento vedrete che più delle volte viene esaltato più in funzione di quello che non è che per quello che è. E sono pochi quelli che ne vantano la comodità o la velocità o, come faceva il Carducci, la diabolica bellezza. Che sia brutto, scomodo e lento praticamente lo ammettono tutti. I suoi sostenitori semmai fanno notare che non inquina o che inquina meno di altre cose, che il suo rilancio e il suo sviluppo permetterebbero di ridurre il numero delle auto in circolazione, che questo gioverebbe molto a frenare la cementificazione autostradale con notevoli vantaggi per l'ambiente e per la salute, e gli conferiranno insomma una tranquillizzante solidità ecologica che ben si presta ad essere contrapposta all'inquietante individualismo dei mezzi su gomma. Il treno è diventato buono e soprattutto al vantaggio di non essere un'automobile, appartiene alla categoria di quei mezzi di cui le persone intelligenti dovrebbero sempre servirsi per perseguire il fine dell'utile collettivo, anche a costo di qualche insignificante disagio individuale, mentre la miope massa degli stolti si ostina a privilegiare il proprio privato comodo e quindi usa il treno meno che può. Il che in fondo è tutto vero. Ma capirete anche voi che un apprezzamento motivato soprattutto in termini negativi lascia il tempo che trova, anche perché la dialettica tra il collettivo e il privato è sacrosanta, ma dovrebbe essere portata alle sue conseguenze logiche, e oggi questo notoriamente non si può fare. Se il treno rappresenta un servizio pubblico da privilegiare in nome dei vantaggi che rende alla collettività, non solo i vantaggi ecologici, ma anche quelli di organizzazione sociale, dalla collettività dovrebbe essere gestito e finanziato. Mentre oggi, per risolvere la crisi del sistema ferroviario, non si sa fare di meglio che invocarne la privatizzazione. Come dire, ristorazione, anche in questo campo, della logica del profitto, che poi è quella che ha determinato la monocultura dell'automobile, la cementificazione autostradale, lo scempio dell'ambiente, e che poco o nulla si cura della funzione sociale dei servizi che intende gestire, e dei poveri disgraziati che il treno lo prendono tutte le mattine per andare a lavorare. Di fronte a quella logica, non c'è progresso, non c'è ambiente e non c'è nemmeno Satana che tenga. La gran feria dell'Express.